Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dopo 10 giorni le transaminasi calano fino a 2800. Il medico freddamente dichiara a mio padre: è finito il fegato, il ragazzo morirà a breve. Ho un tubo in bocca di 3 cm di diametro che mi arriva ai polmoni. Le mani e i piedi sono legati da lacci emostatici. Non sono messo benissimo. Ciao, sono Nicola, abito a Pavolone del Fregnano in provincia di Modena, ho 37 anni e ho una piccola azienda, una famiglia e vivo tranquillo nel mio paese. Io devo ringraziare tanto i miei genitori perché mi hanno insegnato una cosa, che è l'onestà, cioè che è essere in grado di stare in piedi a qualcosa e dire no, questa cosa non si può fare per questo, questo e questo motivo, non la posso accettare, anche se potrebbe darmi un vantaggio, anche se potrebbe essermi utile. Se c'è un motivo per cui non la devo fare, non la devo fare. Mamma, papà, grazie. Pochi minuti fa, prima di andare in onda, ho ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto e, alzando la cornetta, la persona d'altra parte mi ha detto molto cortesemente: buongiorno, stiamo facendo un'indagine sull'ascolto radiofonico in Italia, ha tempo per rispondere a delle domande? E io cosa gli ho risposto? Guardi, in realtà temo di non poter rispondere perché lavoro in una radio. Ho detto: ah, grazie, e ha messo giù. Avrei potuto dire tipo lanciare messaggi subliminali per Radio 24, solo Radio 24, Matteo Caccia, Radio 24, voi siete qui, Radio 24, Matteo Caccia, Radio 24. Invece niente, ho detto grazie. Ringrazio mia mamma e ringrazio mio papà per avermi cresciuto così. Buongiorno a tutti, sono le 16:08, questa è Radio 24, se non l'aveste capito. Io sono Matteo Caccia, se non l'aveste capito nemmeno quello. Il programma invece racconta storie, ogni giorno ne racconta una diversa, e la storia di oggi secondo me è una delle più divertenti che abbiamo trasmesso, non tanto per la storia che è simil drammatica, ma per il modo in cui Nicola l'ha affrontata e soprattutto la racconta. Parla di intossicazione, questo è il tema di oggi, per cui per questo tema apriamo non solo gli sms come facciamo tutti i giorni nel profilo Facebook, ma anche il nostro telefono 800 24 00 24. Se siete in automobile, state andando a casa, state partendo per il ponte del 25 aprile, se siete in ufficio e avete voglia di raccontare di che cosa vi siete intossicati nella vostra vita, vale tutto, valgono i videogiochi, valgono gli sms, valgono i social network, valgono pure gli spritz. 800 24 00 24. Gian Lorenzo mi scrive: di galatine, al solo pensiero mi viene ancora la nausea. Elisa di videogiochi, non per ultimo Ingress, la diavoleria delle diavolerie, scrive Elisa. Realtà virtuale, GPS è sempre attivo, ricerca frenetica di entità inesistenti sulle strade del mondo reale. Mi fa già paura solo a leggerlo. 349-238-6666 per gli sms, invece per chiamare in diretta, ci sentiamo dopo la borsa, però voi chiamate così raccontate anticipatamente qual è la cosa di cui vi siete intossicati e poi vi richiamiamo noi. 800 24 00 24. Vincenzo: mi sono intossicato di Travian, un gioco di guerra online, non lo consiglio, da dipendenza, ora fortunatamente ne sono fuori. E poi Tobia: risponderei volentieri ma devo continuare la mia partita a Marvel Avengers Alliance su Facebook. Vabbè, nomi che non conosco, un po', certo, un po' come il nostro Filippo Aureggi, che ogni tanto lo vedi concentratissimo. Ecco, adesso è passato, fortuna non mi ha sentito. Dicevo, Filippo Aureggi, che ogni tanto si concentra sui suoi social, ha sempre in mano degli smartphone o della roba, lui è abbastanza intossicato di quella roba lì, vero Filippo? Dice di sì dall'altra parte del vetro. 800 24 00 24. Claudia: da piccola una volta ho bevuto 1 litro di olio Johnson, pronto soccorso subito, ancora mi ricordo, e soprattutto si ricorda mia madre. Nicola si è intossicata di una di quelle cose per cui uno dice nell'epoca contemporanea non ci si può più intossicare mangiando dei funghi, vero? Cioè, è una roba che chiunque raccolga un fungo lo fa analizzare. Certo, il problema è che dipende sempre da chi lo fa analizzare. Nel 1989 ero un giovane stolto e arrogante. Nel prato di casa trovai dei funghi ed ero troppo ghiotta l'idea di poterli mangiare avendoli colti proprio lì, tipo la verdura dell'orto. Li raccolsi. I miei genitori non erano molto dell'idea e ne nacque una discussione un po' sterile: sono commestibili, non sono commestibili. Nella montagna modenese, in quel di Pavullo, i fungai più o meno professionisti non mancano. E così il compromesso fu di far decidere al maestro fungaio, amico della nonna. Certo, si poteva andare all'USL locale, dove c'è un servizio gratuito, ma vuoi mettere a fartelo dire dal fungaio? Erano buoni, secondo lui e secondo gli altri. Io lo so, e lo sa anche mia madre, quanto erano buoni. Erano molto buoni, quei funghi. Li mangiammo, grande soddisfazione. Dopo pranzo andai a Castelvetro da parenti, dove mi abbuffai di ottimo gnocco fritto. Alle 9 di sera, senza un dolore, senza un preavviso, iniziai a vomitare. Alle 10:30 avevo rimesso, tutto lo gnocco fritto era finito e anche altro, fino ai succhi gastrici. Mia madre mi portò al pronto soccorso, mi ricoverarono in pediatria. Intanto mio padre era arrivato coi funghi avanzati, i medici capirono che erano velenosi. Più che altro erano i funghi, non li ho mai più mangiati perché la tentazione di tornare a cercare funghi so che mi verrebbe e quindi ci rimango lontano per questo motivo. Invece altre cose mi piace, anzi, andare a cercare i cibi esotici mi divertono. Bevevo carbone attivo come fosse Coca-Cola, litri che puntualmente vomitavo in faccia all'infermiera. Ricordo che lei cercava di farmi bere e io facevo qualche resistenza. Se per voi l'ospedale di Pavullo è troppo piccolo per gestire un caso come questo, sappiate che un reparto di pediatria deve fare delle notti per rimanere aperto. E almeno due le ho passate lì. Il terzo giorno siamo andati in gita con l'ambulanza a far visita al Policlinico di Modena. Appena arrivati al Policlinico, il medico di turno ci disse che non erano preparati e così l'ambulanza prese la direzione di Milano. Questa volta erano sirene spiegate, polizia e lancia delta dello zio dietro. Ho un bellissimo ricordo di quel viaggio. Era fantastico andare a velocità folle in autostrada. Per le strade di Milano la polizia fece del bello, paletta fuori dal finestrino, stile Alberto Tomba quando doveva andare a casa. Vasi di fiori spostati per far passare l'ambulanza sui marciapiedi, una roba da film. Arrivati all'ospedale, finì subito in rianimazione. E da lì, buio. Per 10 giorni giaccio esanime in attesa di un fegato usato. Mi attendono fuori dalla porta due giovani genitori di 41 e 36 anni. La mia vicina di letto, che era prima in lista, ottiene un fegato, ma poi morirà di rigetto. A me viene dato quotidianamente dell'arsenico, fornito dal professor Negro, luminare di omeopatia. Un prete, amico di famiglia, organizza delle veglie di preghiera. Al paese la chiesa è piena di gente che prega per me. Dopo 10 giorni le transaminasi calano, fino a 2800. Il medico, freddamente, dichiara a mio padre: il fegato è finito, il ragazzo morirà a breve. Ho un tubo in bocca di 3 cm di diametro che mi arriva ai polmoni, le mani e i piedi legati da lacci emostatici. Nel momento in cui io ero incosciente non mi ricordo niente. Mi hanno chiesto tantissimi se avevo visto la luce, se c'era l'angelo che mi chiamava, niente. Niente di niente. L'unica cosa che mi ricordo è nel momento del risveglio, mi ricordo che io iniziavo a vedere come se fosse tutto sfocato, solo che ero tutto legato nel letto. Questa è la parte più angosciante per me, è stata di tutta la storia. Poi mi accorgo di qualcosa, un suono che mi arriva piano, un brusio. C'è della luce ma è confusa. Un'infermiera ride con le colleghe. Il mio vicino di letto ha ucciso suo figlio e si è sparato alla testa, ma lui non è morto e rantola. Ora lo vedo, vedo le sue flebo, vedo le mie, vedo l'infermiera e sento il tubo in gola. Sento, vedo, sono vivo. Sono fuori dal coma. Il medico dice: noi non abbiamo fatto niente altro che tenerlo in vita, questo è un miracolo. Il professor Negro dice: l'ho salvato io, e lo dice anche il prete. Un altro mese lo passo a Modena. A gastroenterologia sono di casa ormai e torno ad essere il 14enne che sono. Giallo, senza fegato, ma vivo. La luce si riaccende anche negli occhi di quei due giovani genitori che solo dopo aver avuto dei figli io stesso ho compreso. Tutto il paese è tappezzato di manifesti di ringraziamento con scritto: Nicola è fuori pericolo. Tutti si sentono un po' responsabili della mia resurrezione. Al prete, al paese, sono quello che ha mangiato i funghi. Ed è vero, li ho mangiati, ma è stata l'ultima volta. Escape but keep thinking. yours to a dead weight state. My mind's lost with nightmares dreaming. Woken up, kicking and screaming. Wikipedia dice che si chiama antidoto ogni sostanza in grado di contrastare una forma di avvelenamento. L'ingerimento di veleni viene spesso trattato con la somministrazione orale di carbone attivo, che assorbe il veleno e viene espulso con la digestione. Ed ecco perché Nicola vomitava così tanto. Era la sua maniera di provare a guarire. Altre volte si usano sostanze chimiche che rendano meno potente il veleno e altre volte ancora si iniettano dei farmaci che possono contrastare gli effetti. Ad esempio, se un veleno mette in tensione i muscoli tanto da rischiare di strozzarti da solo, perché ti si chiude la gola, allora ti viene dato un rilassante che ti aiuta a respirare, in attesa che pian piano il veleno termini il suo effetto. E poi ci sono quelle tossine che si dice che se te ne inietti un po' alla volta, alla fine il corpo si abitua e può ingurgitarne tantissima e non succede niente. C'è una cosa che si chiama mitridizzazione. È una parola che arriva dal nome del re Mitridate VI, grande nemico dell'impero romano di oltre 2000 anni fa, uno che, per paura di essere avvelenato da parte dei suoi nemici, cercò di immunizzarsi assumendo piccole dose di veleno ogni giorno. Che è una cosa che ha pure funzionato. Ha funzionato talmente bene che il giorno in cui lui decise di uccidersi, pur di non venire fatto prigioniero, provò ad ammazzarsi usando una gigantesca quantità di veleno, ma non ci fu verso. E poi, anche se in maniera un po' diversa, è la stessa storia dei vaccini. Cioè, ti inietti un po' della malattia che vuoi combattere e il corpo impara a farlo. Più o meno, non sono un medico, quindi prendetemi così con le molle. Diciamo che a me i vaccini sembrano una bella cosa. E anche il fatto che il nostro corpo spesso riesce a curarsi da solo mi piace. Il fatto è che non si cura da solo se un serpente lo morde il corpo e se gli inietta un veleno mortale. Che è la cosa che è successa tra gli altri a un tizio dell'Oregon, si chiama Chad Smith, che ho letto che un giorno, mentre tagliava la legna, si è visto spuntare davanti a sé una biscia che lo ha morso. Così, gratis, senza nessun motivo. L'ha morsa una mano. Lui non l'aveva mai vista quella bestia ed era uno di Portland, era uno che andava nei boschi nei weekend e stava nella sua casa che aveva fatto con le sue mani, una roba che gli americani fanno ancora. Chad ha capito che era nei casini e allora si è legato stretto la cintura intorno al braccio per rallentare la circolazione e ha tenuto d'occhio il serpente. Non si è tagliato sulla ferita e succhiato fuori il sangue perché aveva paura di fare una boiata, quelle cose funzionano solo nei film. Però ha capito una cosa, che all'ospedale dove aveva deciso di andare, gli avrebbero chiesto quale bestia, quale serpente l'avesse morso. E lui non lo sapeva. E quindi ha deciso di andarsela a prendere quella bestia. E non era per vendetta, ma solo per capire quale veleno avesse in corpo. E Chad racconta in questa intervista che quella specie di serpente a sonagli, senza i sonagli, si era intrufolata in un buco per terra, un buco abbastanza grosso e non troppo lungo. E lui ha deciso di andarsela a prendere. Infilando la mano il serpente lo ha morso un'altra volta, ma lui ormai era troppo convinto e se n'è fregato. Dice che non era tanto doloroso, quindi le ha stretto una mano appena sotto la testa e senza mai mollare la presa è salito in macchina ed è andato al pronto soccorso, guidando con una mano sola, quella morsa. Per fortuna l'ospedale era abbastanza vicino e quando si è presentato con il serpente velenoso in mano, tutti praticamente sono scappati e ha dovuto spiegare che non voleva minacciare nessuno con quel serpente. Poi è svenuto, ma senza mai mollare la presa. L'ha salvato un antidoto, ovviamente. Una volta guarito, Chad si è fatto tatuare due serpenti, uno per ogni braccio, infilzati da due siringhe, e ha ricominciato a spaccare legna nella sua casetta nel bosco. Gli americani a volte sono un po' così, gnocchi. Luigi da Treviso, intossicato di tartufi di mare perché li ho mangiati crudi, e ancora Chicco di Sambuca, Daniela invece di pallavolo, 349-238-6666, ma anche e soprattutto 800-24-0024. Di che cosa vi siete intossicati? Vale qualsiasi cosa, valgono il cibo, valgono i videogiochi, valgono gli sport, valgono quelle cose che ti danno una certa dose di piacere che arriva, non si capisce bene da dove, endorfine, dicono endorfine, la corsa, c'è gente che si è intossicata di corsa, di palestra, qualsiasi sia il vostro tipo di intossicazione. 800-24-0024 in diretta qui a Radio 24. Nicola si è intossicato della cosa più semplice ma anche che pare più assurda, di funghi. Pronto Nicola? Sono qua. Come stai? Sto bene, adesso sto bene, grazie. Quanti anni sono passati? Ne sono passati tanti, dal 98 ad oggi cosa sono? 25, 23. No, aspetta, dal 98 ad oggi 25. Quanti anni hai adesso Nicola? 37. E hai due figli? Due figli, sì. Quindi ti ricordi bene lo sguardo dei tuoi genitori? Quando dici si riaccende lo sguardo anche di quei due genitori che ti aspettano fuori? Poveracci, hanno passato un brutto momento, l'ho capito dopo. L'ho capito quando ho visto i miei figli, cosa voleva dire. Sono ancora vivi loro? Sì, sì, per pacco. Ne parlate di questo episodio? Ma sì, se ne parla, perché io questo qua ce l'ho attaccato su una spalla tipo una scimmia, no? In quanto mi hanno preso in giro tutti quanti. Solo una cosa non ho capito Nicola, perdonami, tu hai fatto il trapianto di fegato o no? No, alla fine no. Cioè alla fine, però la spiegazione, a parte il prete che dice che è un miracolo, no, il prete, il medico dice che è un miracolo, giusto? Sì, il medico ha semplicemente detto che loro non mi avevano salvato, loro mi stavano tenendo vivo perché volevano trapiantarmi il fegato non è arrivato ma io mi sono ripreso. Ma quindi cos'è successo? Allora, te lo sei mai spiegato? O te l'hanno mai spiegato? No, non l'ha mai spiegato. L'unico che ha dato una spiegazione, diciamo, scientifica era il dottor Negro, che poveretto è morto adesso, ma lui era un omeopata e lui diceva che attraverso la sua omeopatia, dandomi dell'arsenico, mi aveva salvato lui. Ok. Davvero. Invece, scusami, abbiamo capito che fungo era quello lì? Mi sembra che si chiamasse Lepiota crestata. Ma che faccia aveva? Insomma, com'è fatto? È piccolino, c'ha all'interno un marroncino che poi va dissolvendosi verso il bianco. Bellissima, la descrizione del fungo è fantastico, piccolino. Quindi, e come li avete mangiati? Trifolati, impanati? Sì, trifolati in umido. Erano buonissimi. Ma infatti, era veramente buono? Ma era buonissimo, era spettacolare. Infatti ne ho mangiato poi una padellina, Scusami, è che me li sono mangiati tutti di gusto. Mi dicono che si chiama mazza di tamburo anche. Falsa mazza di tamburo è un'altra definizione di questo fungo. Adesso io ti dico, la mia competenza in funghi è talmente bassa, poi ho abbandonato proprio il mestiere, quindi. Ok, però Google lo definisce mortale, quindi noi stiamo parlando di fatto con un miracolato. Nicola, mi fa piacere parlare con uno che, come dici tu, in quei 10 giorni cosa ti hanno chiesto? Cosa hai visto? La luce? Cosa hai visto? Buio? Cosa hai visto, Nicola? Ho visto buio, ho visto l'infermiera. No, non ho visto niente di luce, santi che ti chiamano. Angeli, niente? Nessun angelo, no. Qualche parente morto che ti diceva vieni che qui si sta meglio. Ma infatti io speravo mi dessero i numeri dell'otto, ma niente. Beh, certo, niente, siamo tutti lì a sperare. C'è gente che li mangia apposta i funghi per avere i numeri dell'otto. Ah, gli puoi consigliare la Lepiota crestata allora. Nicola, adesso ovviamente di funghi non ne mangi più. Assolutamente, come faccio? Ma nemmeno, perché uno mi ha scritto i porcini non danno alcun effetto, li puoi mangiare. Sì, ma anche, però, cioè, sono delle idee, anche quelli, come si chiamano, quelli piccoletti che metto nella pizza, però io ho pensato che eliminando, cioè, ti faccio il discorso da questo punto di vista. Fammelo. Esiste per me una cosa più pericolosa dei funghi, è una cosa pericolosissima, e quindi cerco di evitarli al massimo, anche quelli che so che gli altri mangiano, mangiateli se vi piacciono. Qual è la cosa più pericolosa che fai nella tua vita, Nicola? La cosa più pericolosa che faccio? Sì. Ma non saprei, andare sui tetti forse. Perché cosa fai nella vita? Ma faccio l'artigiano, quindi monto e installo antenne e pannelli solari sui tetti, quindi magari da questo. Quindi insomma può esserci una certa ora di rischio, io non salgo sui tetti insomma per capirci. Certo, sì, però non ho mai rischiato di morire salendo sui tetti, mentre invece mangiando i funghi sì. Mi ricordi invece, me l'ha raccontato Margherita fuori onda, deve averlo raccontato a lei al telefono, di quando facevi gli scherzi all'ospedale staccando l'elettrocardiogramma per fingerti morto? Praticamente, dunque, io, tu capisci, un 14enne dentro a una rianimazione, non è che mi... Che ha preso dei funghi, tra l'altro, quindi... Allora, avevo imparato a fare due cose. Uno sì. era staccare lo spinotto dell'elettrocardiogramma, che partiva una sirena proprio con lampeggianto, gialla, mi ricordo, tipo quella che hanno le ruspe sul tetto. Certo. Arrivano tutti di corsa, dovevi vederli. E un'altra cosa bellissima invece era quella di agitarmi e poi battendo in modo ritmico in cima all'elettrocardiogramma, i battiti andavano a 350, 400 e anche lì suonava la sirena. Ma sei un cazzaro, Nicola! Sì, sì, infatti mi hanno mandato via perché non mi sopportavano più da Milano. Ho detto, basta, rimandato alla Modena, lui qua non lo vogliamo più vedere. Nicola, ti ringrazio molto per il racconto e per il tono soprattutto. Va bene. Stai bene, buona giornata. A te, ciao, ciao. Ciao, grazie, grazie mille. Mi sono intossicato di lei, mi sono intossicato di fare i regali. Niente, oggi vince Nicola, ragazzi, mi spiace. Qualsiasi messaggio arrivi. Voi siete qui. È piuttosto decontestualizzato Nicola nella foto che ci ha mandato. Ha poco a che fare con la storia dei funghi, anche se me lo sarei immaginato con un fungo in mano a osservarlo da lontano, cioè da lontano, a distanza. E invece no, sta suonando la chitarra, un bel chitarrone di quelle tipo facciamoci una schitarrata sulla spiaggia. Ed è, non è una spiaggia, però è all'aperto, c'è un cielo bianco dietro di lui, quindi non deve essere proprio estate. Infatti lui ha su un maglione di lana e sta suonando un esattamente alle mani, cos'è, un sol settima quello, è un mi. Se c'è qualcuno davanti al computer che conosce gli accordi, se mi sa dire, andate sul sito radio24.it alla pagina di Voi Siete Qui, che accordo è quello che sta facendo in questo momento e in questa foto Nicola. Secondo me è un boh, o è un mi strano o un sol settima. Fegato, sostantivo maschile. Grosso organo ghiandolare dei vertebrati. Nell'uomo, situato nell'addome in corrispondenza dell'ipocondrio destro. L'organo di animali macellati nel linguaggio culinario e farmaceutico, figurato ardimento, coraggio, temerarietà, sprezzo del pericolo. In chimica, denominazione adoperata in passato per indicare alcuni polisolfuri di metallo. Etimo latino ficatum, data secolo XIII-XIV. Allora, partiamo con un'errata corrige, perché sia io che Nicola abbiamo detto che dal 1998 al 2013 passano 25 anni e invece ne passano solo 15. Quindi questo è per chiudere. Giustamente Fabio Cantatori dice starà facendo un giro di do nella foto. Sarà in un passaggio del giro di do. Il classico giro di do, che anche se non sai suonare la chitarra, lo sai suonare. Ti fai sapore di sale e l'altra... cioè quell'altra di Paoli, il cielo in una stanza, bravo, grazie Tiziano. Intossicato dagli spray Montana. Se non sai di cosa si tratta, stai attento alla macchina. Bella Teo, chi è che mi scrive? Bella Teo. Gli spray Montana sono gli spray che usano i graffitari, lo so cosa sono, non perché abbia mai fatto graffiti, ma perché lo so. E poi mi sono intossicato di quattro. Devo leggerli prima i messaggi. Prima di andare in onda, devo leggerli prima. Tiziano usa come un bastone elettrificato. Ripetimelo. Intossicato di Cointreau. L'odore rischia di farmi vomitare a distanza di 15 anni. Christian. Intossicato di uova sode. Mangiate tutti i giorni per settimane e settimane. Perché a meno che tu non sia Rocky Balboa, non devi mangiare uova sode tutti i giorni. Dopo aver vomitato per una settimana, ho pensato che forse era meglio non mangiarne più. 800240024. Qualcuno che si è intossicato di qualcosa. Che non siano le uova sode, che al solo pensiero mi fa venire un po' di nausea. Ce l'abbiamo, Nicoletta da Milano. Pronto Nicoletta? Pronto, ciao, sono Nicoletta. Come stai Nicoletta? Io sono Matteo, quindi siamo adesso giusti. Adesso bene, adesso molto bene, grazie. Però un tempo ti intossicasti? Di cioccolato, quasi 50 anni fa, avevo 5-6 anni, adesso a dicembre ho 54 e mia mamma era Pasqua, stava sbrinando il frigorifero, aveva un uovo di Pasqua gigantesco, l'avevano regalato mio papà e sarà stato un 2 chili. Mentre lei era al telefono, allora io piano piano camminavo in corridoio a quattro zampe, dalla camera alla cucina, staccavo un pezzo, dalla cucina alla camera e via dicendo. La telefonata è durata tipo un'ora e io l'ho mangiato tutto. Quindi in un'ora ti sei mangiato 2 chili di cioccolato? In un'ora ho mangiato, cioè, tu immagina, voi immaginate un uovo di quasi 2 chili, mi hanno detto. Ed è vero che hai avuto l'acetone fino a 15 anni dopo quell'esperienza? Ho avuto il cetone fino a 15 anni, non potevo mangiare niente, se no mi veniva il cetone a mille, facevo la prova, era viola. Ma l'acetone, scusami, esatto, brava, la prova. L'acetone era quella cosa per cui facevi la pipì sulla pastiglia. Sì, esatto, adesso c'è una frisciolina, una volta c'era una polverina, la mettevo sul lavandino, facevo la prova, viola, blu, quasi nera. Ricordo il terrore di quando quella roba diventava tipo fucsia. Ma scusami, ma l'acetone esattamente che cos'è? Tu non sei medico, quindi non lo sai. No, esatto, però guarda, non potevo mangiare niente, mi andava a palla. Quindi fino a 15 anni avevo un fisico stupendo. Dopo i 15, questo sembra, mi sembra un consiglio non magnifico, non da Nicoletta Carbone, fatevi venire l'acetone per dimagrire, quindi lo cancelliamo. Grazie Nicoletta, buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo a Firenze da Valerio, che un pochettino capisco. Pronto Valerio? Ciao Matteo. Come stai? Bene, bene, grazie. Cosa stai facendo Valerio? Io ora sto guidando, sono col viva voce. Bravo. Però... no, io mi sono intossicato di Rasol, perché veramente qualche settimana fa, non tantissimo tempo fa, un mesetto fa, ho scaricato sto giochetto, ho detto bah, vediamo, giocano tutti. Non ecco, bravo, pensavo... Valerio, spieghiamo, lo spiego io velocemente che cos'è. Sì. Questo è un giochino, è un'app, è un giochino per smartphone, giusto, sì. Solo per smartphone immagino, anche per tablet, sì. Vabbè, in cui devi strisciare col dito su delle lettere per far uscire delle parole di senso compiuto. Giusto? Più o meno. Hai due minuti di tempo e se sei online sfidi della gente che non conosci. Io devo ammettere che ho fatto una figura orribile con Razzle, perché non avendo nessuno contro cui giocare, un giorno col mio profilo Twitter ho scritto, sai quella roba immediata, no? Sfidatemi a Razzle. Mi sono arrivate tipo 50 richieste di partite e non ne ho vinta una. Quindi, esatto. A parte la figura orribile che ho fatto, mi sono cancellato immediatamente, però è vero che quella roba lì dei giochini dà un po' di intossicazione. Quante volte ci giochi, Valerio? No, ora nell'ultima settimana non più, perché avevo raggiunto dei livelli veramente da drogato e era incredibile, avevo tipo 10 partite aperte contemporaneamente e andava a finire che a volte mi trovavo a giocare tipo 2 ore di fila e arrivavo quasi a trascurare il lavoro. Cosa fai nella vita, Valerio? Io ora mi occupo di immobiliare non solo su Italia ma anche su estero. Qui, qui le volte, insomma, no, c'erano anche i clienti e io trascuravo. Insomma, una cosa veramente intossicante. Tua moglie, hai uno straccio di moglie che ha chiamato un medico? No, ho una fidanzata che anche lei era abbastanza preoccupata. Ok, credevo fosse sotto di Razzle anche lei, invece no. Era... No, lei anzi cercava di distogliermi in ogni modo, ma io ero lì che... E allora poi è successa una cosa che ha cambiato la mia vita nell'ultima settimana, devo dire, cioè? È stata bella, perché io avevo comprato uno smartphone abbastanza evoluto, sì, da poco tempo, ed era questo che mi aveva concesso di scaricarmi l'app e tutto quanto. Lo smartphone ha letteralmente cominciato a fumare, cioè io avevo collegato al caricabatteria, a un certo punto lo smartphone, ho visto il fumo e si è scaldato tantissimo, si è spento lo smartphone. Arrivederci, grazie. Adesso ci stai chiamando con un cellulare di prima generazione, mi stai dicendo, non Valerio? Prima è sempre uno smartphone, ma non ha quelle non possibilità, ha la capacità di gestire tutte le informazioni. Quindi mi sembra che il consiglio per liberarsi dalle, insomma, dalle ossessioni sia dare fuoco a quello che ti fa arrivare a quel gioco. In qualche modo uno se ne libera. Lì per lì sono rimasto male, poi però devo dire immagino che la mia vita è migliorata. Valerio, grazie mille, buona giornata. Ciao, Matteo, ciao, stai bene. Ciao, grazie. Ciao, mi intossicai di aspirina per bambini, dice Cristian da Carpi. Beh, però lì non può essere colpa tua. O lo mangi di nascosto, come è successo a Nicoletta. Intossicato di barzellette. Un figlio dice al babbo: no, grazie, barzellette in onda no. Sentiamo un'altra telefonata, facciamo in tempo. Andiamo a Roma da Gianluigi. Pronto Roma? Roma, sì, Gianluigi. Pronto Roma, sembravo un giornalista. Scusami Gianluigi, ti ho chiamato come un giornalista qualunque collegato da Roma. Sì, pronto Roma, cosa succede? Dove sei Gianluigi? Io veramente sono Anzio. Stai ad Anzio? Per cui ho pure cannato completamente. È uguale, intanto provincia di Roma. Cosa stai facendo ad Anzio Gianluigi? Dunque, io in questo momento niente, sto facendo questi calcoli qui, come ho già detto. Sto cercando di trovare un sistema vincente senza spendere troppo. Perché, diciamo, questa è l'intossicazione di cui ci stai raccontando. Infatti, questa è proprio un'intossicazione. Che cos'è? Un sistema? Sono 3 anni, 4 anni che ci sto facendo questi calcoli. Ogni tanto mi prendo un giramento di testa, allora me devo riposare. Gianluigi, scusa, me lo spieghi un po' meglio. E questo è un sistema per vincere a cosa? Allora, io ho provato con l'otto, non si può fare perché sono 90 numeri, quindi niente. Sì. Ho provato col 10 e l'otto, si potrebbe fare, ma ci vogliono 100.000 euro. Sì. Potrebbe fare qualcosa. Allora adesso sto provando con la roulette, con i numeri della roulette, che sono 37 numeri, e quindi essendo pochi numeri qualcosa si può fare. Ma Gianluigi, scusami, in 3 anni hai vinto qualcosa già o no? No, no, ma in 3 anni sto facendo soltanto il calcolo, pensi. No, aspetta, aspetta, scusa un secondo Gianluigi, no. Cioè tu da 3 anni sei davanti a un computer, immagino? Ma più che computer, è un lavoro proprio pratico mentale a mano. Cioè, quindi tu sei con una penna e un quaderno a fare dei calcoli, certo, per un sistema. È la calcolatrice, ovviamente. È la calcolatrice, ovviamente. Ma che stai inventando tu? E quindi chiamerai Gianluigi D'Anzio? Esatto. Allora, io veramente con un sistema l'avrei finito, no? Ok. E quindi ci vorrebbe a me un capitale, ecco, i primi capitali che... dei primi calcoli mi aggirano sui 20.000 euro, 30.000, 50.000. Adesso faccio un calcolo. Gianluigi, 5.000 euro. Va bene, senti, io ti ringrazio, starei delle ore ad ascoltarti, però purtroppo abbiamo finito la puntata. In bocca al lupo per il tuo sistema. Grazie Gianluigi che ha chiamato adesso, grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Fabio Cantadori e Stefano D'Andrea. Grazie soprattutto a Nicola, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Federico, abito a Roma e la storia di domani è la mia e parla della mia passione per lo sci e di un'avventura. Questa è la mia storia e io sono qui.